Dunque, 96 a 66 nel basket, Sassari batte la Montepaschi Siena dal 2001, Siena piglia tutto, non beccava un trentello, gara 3 dei quarti di finale con la Fortitudo. Cosa posso fare se non i complimenti di nuovo a Meo Sacchetti? Ma i complimenti li devi fare ai miei giocatori e poi io me ne prendo una parte, però hanno fatto veramente qualcosa di importante contro una grande squadra, perché noi avevamo già fatto delle belle prestazioni in casa, proprio delle partite anche spettacolari, però averla fatta contro Siena dà più valore a questo. È vero che ieri sera in certi momenti ti sei seduto a goderti lo spettacolo dei tuoi? No, ero in piedi, però onestamente nel secondo tempo ci sono stati 5 minuti che onestamente me la sono goduta, di come stavano in campo con l'intensità, con le facce giuste. Questo per un allenatore, vedere i suoi giocatori giocare con la bella faccia, con la presenza, con l'intensità e tutto, è sicuramente un piacere.